d'un mondo di lacrime che cadono sulla pelle di chi è povero come me. Apro gli occhi al cielo per vedere il sole, quel sole di tutti, quasi libero. Noi, noi, noi, senza pace, solo guerre, aspettiamo incatenati a queste leggi del potere. Ribelliamoci alle dittature, alla violenza, alle torture, alla fame, al nucleare, al razzismo. Noi siamo figli della pace, vogliamo un mondo colorato e sorrisi di ogni età. Noi non siamo angeli e non siamo diavoli, ma siamo luce, luce che cammina per cambiare il mondo. Avere diritti umani, abbattere le discriminazioni e prendere la mano a tutta la gente. Lotta dura senza paura, lotta dura senza paura, lotta dura senza paura, libertà. Quanta gente muore, quanta gente fugge, le navi affondano, ma chi si salverà? Perseguitati dalle leggi razziali, dai governi dittatoriali, salviamo i popoli oppressi dalla crudeltà. Noi non restiamo a guardare, la nostra rabbia si ribella per avere libertà. Libertà senza condizioni, questa vita va a rotoli, la terra trema di dolore, il cielo piange ferito. Ma tu chi sei che distrugge anche l'aria, quest'aria che respiriamo, un nodo, un gola mi assale. Adesso assassini di gente innocente, anche i bambini con le ferite sulla pelle, massacrati, schiavizzati dalle vostre mani mostruose. Lotta dura senza paura, lotta dura senza paura, lotta dura senza paura, libertà. Lotta dura senza paura, lotta dura senza paura, lotta dura senza paura, libertà.